Capitolo 47. Giuseppe andò a informare il faraone e gli disse: «Mio padre e i miei fratelli, con le loro greggi, con i loro armenti e con tutto quello che hanno, sono venuti dal paese di Canaan. Ecco, sono nella terra di Goshen». Poi prese 5 uomini tra i suoi fratelli e li presentò al faraone. Il faraone disse ai fratelli di Giuseppe: «Qual è la vostra occupazione?» Essi risposero al faraone: «I tuoi servi sono pastori, come lo furono i nostri padri». Poi dissero al faraone: «Siamo venuti ad abitare in questo paese perché nel paese di Canaan non ci sono pascoli per le greggi dei tuoi servi, poiché la carestia è grave. Permetti ora che i tuoi servi abitino nella terra di Goshen». Il faraone parlò a Giuseppe dicendo: «Tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te. Il paese d'Egitto sta davanti a te. Fai abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese. Risiedano pure nella terra di Goshen. Se conosci tra di loro degli uomini capaci, falli i sovrintendenti del mio bestiame». Poi Giuseppe fece venire Giacobbe, suo padre, dal faraone e glielo presentò. E Giacobbe benedisse il faraone. Il faraone disse a Giacobbe: «Quanti sono gli anni della tua vita?» Giacobbe rispose al faraone: «Gli anni della mia vita nomade sono 130. I miei anni sono stati pochi e travagliati e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita nomade». Giacobbe benedisse ancora il faraone e si ritirò dalla sua presenza. Giuseppe fece abitare suo padre e i suoi fratelli, diede loro una proprietà nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese, nel territorio di Ramses, come il faraone aveva ordinato. Giuseppe fornì pane a suo padre, ai suoi fratelli e a tutta la famiglia di suo padre, secondo il numero dei figli. In tutto il paese non c'era pane, perché la carestia era gravissima. Il paese d'Egitto e il paese di Canaan soffrivano a causa della carestia. Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, come prezzo del grano che si comprava. Giuseppe portò questo denaro nella casa del faraone. Quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli egiziani vennero da Giuseppe e dissero: «Dacci del pane. Perché dovremmo morire in tua presenza? Infatti il denaro è finito». Giuseppe disse: «Se non avete più denaro, date il vostro bestiame e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame». Quelli condussero a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, delle loro greggi di pecore, delle loro mandrie di buoi e dei loro asini. Così fornì loro del pane quell'anno in cambio di tutto il loro bestiame. Passato quell'anno, tornarono da lui l'anno seguente e gli dissero: «Noi non nasconderemo al mio signore che il denaro è esaurito e le mandrie del nostro bestiame sono passate al mio signore. Non resta più nulla che il mio signore possa prendere, tranne i nostri corpi e le nostre terre. Perché dovremmo morire sotto i tuoi occhi, noi e le nostre terre? Compra noi e le nostre terre in cambio del pane. Noi con le nostre terre saremo schiavi del faraone. Dacci della semenza perché possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un deserto». Così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto. Infatti gli egiziani vendettero ognuno il proprio campo, perché la carestia li colpiva gravemente. Così il paese diventò proprietà del faraone. Quanto al popolo, lo trasferì nelle città, da un capo all'altro dell'Egitto. Solo le terre dei sacerdoti non acquistò, perché i sacerdoti ricevevano un'assegnazione stabilita per loro dal faraone e mangiavano grazie all'assegnazione fatta dal faraone. Per questo essi non vendettero le loro terre. Giuseppe disse al popolo: «Ecco, oggi ho acquistato voi e le vostre terre per il faraone. Eccovi del seme, seminate la terra. Al tempo della raccolta ne darete il quinto al faraone. Quattro parti saranno vostre, per seminare i campi e per nutrirvi con quelli che sono in casa vostra e con i vostri bambini. Quelli dissero: Tu ci hai salvato la vita. Ci sia dato di trovar grazia agli occhi del nostro Signore e saremo schiavi del faraone. Giuseppe ne fece una legge, che dura fino al giorno d'oggi, secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per il faraone. Soltanto le terre dei sacerdoti non diventarono del faraone. Così gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella terra di Goshen. Ebbero delle proprietà, furono fecondi e si moltiplicarono oltremodo. Giacobbe visse nel paese d'Egitto 17 anni. La durata della vita di Giacobbe fu di 147 anni. Quando Israele si avvicinò al giorno della sua morte, chiamò suo figlio Giuseppe e gli disse: Ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mettimi la tua mano sotto la coscia e usami bontà e fedeltà. Non seppellirmi in Egitto, ma quando giacerò con i miei padri, portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nella loro tomba. Egli rispose: Farò come tu dici. Giacobbe disse: Giuramelo. Giuseppe glielo giurò. Israele, rivolto al capo del letto, adorò.